spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Otto e 16, ben ritrovati. Continua a salire il bilancio delle vittime in Egitto e naturalmente da Radio 24 continueremo a aggiornarvi. Vi ricordo Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci alle 13.15, si occuperà proprio di approfondimenti sulla situazione in Egitto e con lui saranno Paola Caridi e Ugo Tramballi. Noi oggi parleremo d'economia, di quello che avete nelle tasche, perché proprio così, attenzione a ciò che avete nel portafoglio, daremo un'occhiata anche noi. Parleremo di carte di debito, revolving card, uno strumento di pagamento che può diventare anche una gabbia se usato male, che induce a pagare un debito con tassi fino al 25,2%. Quindi se utilizzata come un bancomat, questa carta può davvero imprigionare in una sorta di debito perenne, di cui però c'è poca consapevolezza, perché mentre gli Stati Uniti, il Nord America, il Canada l'hanno imparato a proprie spese, in Italia si stanno diffondendo molto adesso queste carte. Complice un po' la crisi, siamo a 3 milioni e mezzo di pezzi, ben lontani, chiaro, dal numero, dal miliardo e mezzo che circola negli Stati Uniti, però si diffonde sempre di più e dobbiamo tenere gli occhi aperti. Ci porteremo anche alle 9 a parlare di disoccupazione, perché sembra che i giovani italiani non siano disoccupati, semplicemente non hanno voglia di lavorare, non hanno fame di lavoro. Quindi da una parte ci sono i dati Istat che parlano di disoccupazione al 39,1% nella fascia giovanile, cioè in crescita di 4,6 punti percentuali su base annua secondo le ultime rilevazioni. E poi c'è stata in questi giorni, l'avrete letto ieri, oggi i quotidiani infatti non sono in edicola, una voce in controtendenza, c'è un signore sul Corriere ha dichiarato: ma quali disoccupati? Questi italiani vengono ai colloqui di lavoro con la mamma, non vogliono lavorare il weekend. Insomma, gli italiani non hanno fame e io assumo stranieri. Questa è la verità e questo sarà l'oggetto del nostro dibattito alle 9. Tutte le coordinate della trasmissione, starete con noi fino alle 10. Il numero di telefono dunque 800 24 00 24 e per i messaggi SMS 349 238 6666. It's said that whenever it rains in Syria, the Lebanese have to open their umbrellas. E allora tutte le volte che piove in Siria sono i libanesi a dover aprire l'ombrello. Di che stiamo parlando? Oggi nel nostro consueto incontro con il corrispondente straniero che racconta l'Italia alle proprie testate, alla propria radio, alla propria TV, andremo a incontrare Talal Krais. Buongiorno, benvenuto Talal. Buongiorno a voi. E Talal Krais è un esperto di scenari di geopolitica, il corrispondente di Almanara Roma, responsabile delle relazioni internazionali del Centro Italo-Arabo, insomma un profondo conoscitore della zona che andremo a visitare, perché non parleremo d'Italia con lui, infatti lo abbiamo scomodato per scoprire che da un anno e mezzo si trova in Siria. E ti trovi in Siria e ieri, dopo che ci siamo parlati, è rimbalzata sui giornali di tutto il mondo la notizia dell'autobomba in un quartiere di Beirut, i 20 morti secondo l'ultimo bilancio, l'invito delle Nazioni Unite a starne fuori, a non diventare un epigono della guerra in Siria. E, secondo te è un messaggio chiaro quello dell'autobomba di ieri? Come leggi questo attentato? Questo attentato è atteso. Hezbollah era in allerta, ha fatto moltissimi controlli, faceva molto stretti controlli sulle macchine, su chi entra e chi esce, perché aspettava questo attentato. Questo è una conseguenza di due fattori. Il primo fattore è che Hezbollah oggi festeggia i 33 giorni della guerra del 2006, quando Hezbollah considera questa una grande vittoria contro Israele. Allora, ci sono due cose che due pressioni sul Libano. Una è che gli israeliani non vogliono far festeggiare Hezbollah questa grande vittoria, perché è la prima volta nella storia del mondo arabo poche migliaia di combattenti riescono a respingere un attacco. Il secondo dubbio su questo è che in Siria, io lavoro in Siria da moltissimi mesi, mi occupo della Siria, ci sono circa 400.000 stranieri che sono venuti da tutto il mondo a combattere in Siria, perché considerano oramai Siria, Libano, l'Iraq è terra della jihad. 400.000 allora, stranieri. Sì, ci sono quattro, perché io sono stato nella battaglia del Qusair, quelli che si sono arresi, il 90% erano stranieri, il 10% erano siriani. Allora, questi hanno promesso. Quindi, secondo te, chi combatte contro Assad in realtà non è siriano? No, per niente, ma questo lo dice la CNN, lo dice la BBC, lo dicono anche i colleghi italiani che vengono qui. Purtroppo ora la RAI, il GR non possono venire perché c'è una nota della Farnesina che non vi lascia andare, ma ci sono altri giornalisti che vengono qui. È da 2 anni e mezzo che il confine turco è aperto con il finanziamento saudita e del Qatar. E purtroppo con una copertura occidentale che ha bevuto la teoria di Erdogan, che esiste un Islam moderato che potrebbe essere filo occidentale, e questo tutto fallito, perché questo Islam si è provato in Tunisia fallito, in Egitto fallito, in Siria fallito, non ha fatto altro che annullare le altre, colpire le minoranze, distruggere le chiese, distruggere tutto quello che è diverso. Quindi, di secondo loro. Te, stai dicendo, Talal, nel mondo, e anche grazie alla scarsa copertura giornalistica data dalla situazione, c'è una rappresentazione errata, manipolata di quello che sta succedendo in Siria? Ma i primi a scoprirlo sono gli americani e i britannici, che sono fino in fondo contro il presidente. Guarda, questa guerra in Siria non ci prendiamo in giro, perché se l'Arabia Saudita vuole democrazia comincia a farlo nel suo paese. In Arabia Saudita nemmeno esiste la Costituzione, il potere passa dal padre al figlio, e il paese dove ci sono più violazioni dei diritti umani. Poi il Qatar fa ridere, un paese delle banane che occupa. Erdogan voleva fare leader del mondo islamico, usarlo come carta nei confronti dell'Europa e essere un controbilancio. Tutto questo è andato in tilt, fallito, perché non esiste questo, perché quelli che sono scesi nelle piazze nella primavera araba non sono quelli che governano. Questi stati sono stati assaliti dai fratelli musulmani, che sotto la loro ombra cresce il terrorismo, e l'Europa ha bevuto questo, l'Europa ha sostenuto, l'Europa ha rotto i rapporti con la Siria dopo il massacro di Hula, e poi si è scoperto che il massacro di Hula l'hanno fatto i terroristi. Chi taglia la testa ai preti, chi sequestra i vescovi, sono questi terroristi. Anche il padre dell'olio è andato da loro dopo l'averli difeso molto tempo, non si sa dove sta ora. Bisogna capire le cose, bisogna capirli, perché non solo questo, perché gli interessi dell'Europa. In Italia, io sono passato più volte, nessuno si pone la domanda perché c'è la crisi economica. C'è la crisi economica perché c'è una politica estera sbagliata. L'Italia rompe con l'Iran, dove c'è un scambio di 8-9 miliardi di dollari. Sbaglia in Iraq, dove ci sono stati 20-30 miliardi di dollari. Rompe con la Siria, il primo partner. Beh, la tua lettura è molto chiara. Insomma, tu dici, dovremmo imparare dalla storia. Ci sono mercenari pagati, prezzolati in tutte queste realtà, e i movimenti estremisti, se vincessero, porterebbero in molte situazioni a uno stato teocratico. Fate attenzione, l'Europa chiude gli occhi. Ora vorrei riportarti, approfittare del tuo tempo, Talal, anche per parlare invece della situazione umanitaria, perché il conflitto in Siria ha prodotto una catastrofe umanitaria quasi senza precedenti. Sarebbero 1.900.000 alle persone fuggite dal paese per trovare riparo negli stati confinanti. Sono arrivati 160, sembra, siriani questa notte in Italia. L'Italia, come sai, da tempo grida all'invasione e abbiamo parlato di 160 persone. Sappiamo che solo in Libano, mettiamolo in un contesto tutto ciò, no? Il Libano ha quanto? Sì. 4 milioni sì. e mezzo, 5 milioni di persone. Quant'è la popolazione libanese? Metà della popolazione libanese è siriana in questo momento e questo fa saltare un equilibrio. E quanti rifugiati ci sono in Libano? Ci sono 1,5 milioni. 1,5 milioni che si aggiungono a 600.000 palestinesi che ha il Libano e questo fa saltare un equilibrio. Ricordiamo che la guerra civile è nata in Libano perché si è rotto un equilibrio. Il Libano è composto da 18 comunità religiose, l'equilibrio tra di loro molto delicato. Far entrare 1,5 milioni di musulmani in un paese dove metà cristiano fa saltare tutti gli equilibri. Oltre a questo sta creando dei problemi molto grossi. Per esempio in Libano c'è risparmio energetico, per esempio la gente non può avere più di 8 ore di luce, c'è mancanza dell'acqua. E poi il paradosso è che io sono a Damasco, sì. Ritorno a casa dopo le 2 di notte e sono stato anche con colleghi italiani poco fa di Sky e di l'Eco di Bergamo e non abbiamo sentito una pallottola. Allora perché queste organizzazioni delle ONG vanno in Giordania, no? Non vanno per esempio a lavorare in Siria, assistono questa gente prima di farli andare tutto questo lungo viaggio in miseria, in tortura, in insulti, perché non vanno a lavorare sul terreno? Perché non è detto che in Siria ci sono combattimenti dappertutto. È molto chiaro, allora, è molto chiaro il tuo messaggio, Talal Krais, grazie mille per questa lettura, questa analisi importante. Siria che sta scomparendo dalle pagine internazionali, quando invece, come sentite, la situazione nel paese rimane di altissima emergenza. Grazie a Talal Krais, esperto di scenari di geopolitica, oggi l'abbiamo incontrato nella nostra finestra dedicata ai corrispondenti, perché lui è il corrispondente di Al Manar a Roma. E chiudiamo questa pagina, ci ritroveremo tra poco invece per occuparci di economia e degli effetti devastanti di uno strumento economico, se utilizzato male naturalmente. Stiamo parlando di carte di debito, revolving card. Qual è la vostra esperienza? Sottolineatelo, dateci le vostre testimonianze. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 8.32, mille aspetti all'attualità ci portano spesso, ultimamente, in ambito economico. E si registra da parte delle famiglie italiane un grande problema, quello del sovraindebitamento. Milioni di famiglie che sono indotte a vite a rate. Ci sono anche, però, nello stesso tempo, campagne mediatiche che spingono nella direzione di acquistare a debito beni, servizi e queste carte di debito, revolving card si chiamano, che, come dice uno slogan, chi le conosce le evita. Lo sanno molto bene gli statunitensi, infatti dopo aver ridotto milioni di famiglie sul lastrico, dopo aver lanciato consigli del tipo tenete la vostra carta di credito in frigorifero. Si chiama credit card da quella parte dell'oceano perché sono l'unica forma di carta di credito esistente, nel senso che man mano che le si utilizza ci è richiesto di pagare un pagamento minimo mensile e di tenere il debito acceso. Dopodiché via posta arrivano delle lettere che innalzano il tetto oltre il quale si può sforare e si continua così senza mai rendersi conto esattamente di quali siano veramente i tassi di interesse applicati e di quando questo debito si esaurirà. Al punto che ormai vengono distribuiti perfino dei consigli via YouTube, dei tutorial, dei video che insegnano e spiegano cosa sta succedendo con quelle carte di credito che hanno raggiunto il numero di 1,5 miliardi, pensate, negli Stati Uniti. If you have a large amount of credit card debt and are only making the minimum payment every month, you're not going to pay it off anytime soon. Eccolo, sentite uno di questi video istruttivi che spiega: se hai una importante somma di debito sulla tua carta di credito revolving, stai pagando solo la somma minima richiesta ogni mese, non finirai mai di pagare. E dunque, se tu versi solo il pagamento minimo, attenzione perché è un meccanismo molto interessante, ci vorranno decenni prima di ritrovarti libero da questo debito. Diciamo che tu abbia un debito di $10,000, in questo caso sta parlando in dollari naturalmente, dunque rappresenta il livello in cui il bicchiere è pieno, fino a... devi ripagare questo denaro che devi alla compagnia di carte di credito, e questa compagnia di carte di credito qui è rappresentata da un'anfora. Ogni mese svuoti un pochino il tuo bicchiere, cioè il tuo debito, pagando il minimo richiesto, $142. Quel pagamento riduce il totale del denaro che tu devi a $9,858 alla fine del mese, un po' più basso dunque, non più 10.000. Sfortunatamente però c'è il tasso di interesse, 17%, quindi il tuo debito tornerà alla fine di quel mese a essere $9,999. Il mese successivo, se farai lo stesso pagamento di $142, il tuo debito scenderà a $9,847. Ma ancora una volta c'è il 17% di interessi, un'altra volta il tuo debito sarà ancora 9.998. È un passaggio un po' lungo, ma che spiega molto bene il meccanismo. Questo vuol dire che dopo che tu hai pagato alla compagnia della tua carta di credito $284, cioè dopo due mesi che hai acceso quel debito, in realtà il tuo debito è sceso solo di $2. Meccanismo perverso e molto pericoloso. Buongiorno Leonardo Peruffo. Buongiorno. Leonardo Peruffo è il presidente dell'Associazione Europea dei Consumatori Indipendenti. Con noi c'è anche Andrea Curiat. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Collaboratore del Sole 24 Ore, e Elio Lannutti, presidente dell'Associazione Difesa Consumatori Utenti Bancari, Finanziari e Assicurativi, conosciuta come ADUSBEF. Buongiorno. Buongiorno. Abbastanza allarmante questo video e questo meccanismo che finalmente viene spiegato in questo tutorial, Lannutti. Sì, insomma, lei l'ha spiegato molto bene nell'introduzione a chi ci ascolta. Un meccanismo infernale dove si diventa, come dice un sociologo non molto conosciuto in Italia, si chiama Bauman. È abbastanza conosciuto, diciamo, Bauman. E la dipendenza da credito, cioè si diventa credito dipendenti, è come la droga, non finisce, come quando ci si droga. Ora, noi anche da sempre abbiamo messo in guardia la nostra associazione da questi consigli di acquistare oggi perché si può pagare dopo un anno, cioè, ricordiamo quelle campagne fatte dalle banche, dalle società finanziarie: compra oggi, pagherai comodamente, solo che scattano i tassi di interesse. E ci sono anche delle inchieste giudiziarie, ce n'è una, non so se la conoscono i nostri ascoltatori, il PM di Trani, Michele Ruggero, che indaga anche sulle agenzie di rating, sulla manipolazione dell'Euribor, eccetera. Una delle più grandi aziende, l'American Express, è sotto processo, è stata rinviata, i suoi dirigenti sono stati rinviati a giudizio perché i tassi di interesse arrivavano, secondo le perizie, a superare il 200%. Quindi non bisogna demonizzare questi strumenti che possono essere utili, bisogna però conoscerli per poterli utilizzare e soprattutto diffidare quando ci arriva nella cassetta della posta una carta che bisogna attivare, caricata di 2-3 mila euro. Bisogna fare molta attenzione, leggere tutte le clausole contrattuali, perché di solito si funziona così. Drogati di questo denaro. Di solito si funziona così, si approfitta di quell'offerta che magari ha dei tassi di interesse allettanti, soprattutto se ci si trova in difficoltà, se si ha bisogno di contanti che non ci sono sul conto corrente, se bisogna affrontare una spesa imprevista, e questo ormai riguarda la maggioranza delle famiglie italiane che non sono più in grado, più del 50%, di affrontare una spesa imprevista anche di 800 euro al mese. Succede, ruote che si bucano, dentista improvvisamente, sono tantissime le voci. Diventa allettante utilizzare quello strumento che ci troviamo nella cassetta delle poste. Tasso 2-3%, però forse per un mese, per due mesi, la carta si è attivata, la si tiene nel portafoglio e ci si dimentica la scadenza di quel tasso a nostro vantaggio, per poi finire a un aggiornamento automatico del tasso che avviene senza che nessuno ci informi con un'altra lettera o con una telefonata, per cui ci si trova a pagare quel debito con tassi che in media sono sul 21-25%. Lei ha detto, Lannutti, non bisogna demonizzarla questa carta di credito, questa revolving card, ma soprattutto non bisogna confonderla con le carte prepagate, perché ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori di trovare le carte prepagate molto utili invece per il controllo del debito. Ripeto, lei ha fatto un'introduzione impeccabile di questo meccanismo infernale. Se si conosce, se si conoscono i tassi di interesse, le clausole contrattuali, naturalmente si tiene sotto controllo la propria capacità di spesa, altrimenti scatta anche come il caso. Abbiamo qualche problema sulla sua linea, ma adesso cerchiamo. Io sono al telefono cellulare, non ho un fisso, spero che si possa sentire. Ora è tornato, Lannutti è tornato. Grazie. Andiamo anche dal Andrea Curiat, perché è un esperto del Sole 24 Ore, proprio di questi strumenti di pagamento differenziati che ormai tutti hanno a disposizione, per fare qualche distinguo importante, Andrea, tra carta ricaricabile e carta di debito. Sì, bisogna prima di tutto considerare che le carte di debito normali attingono al saldo disponibile sul conto corrente, sono collegate al conto corrente, si paga su ciò che già si possiede, sui soldi che sono già stati versati sul conto corrente, senza pagare tassi di interesse aggiuntivi se non le normali commissioni di utilizzo specificate nei vari contratti. Le carte revolving, appunto, come dicevamo, invece mettono a disposizione un fido, cioè una linea di credito che si va ricostituendo man mano che si rimborsano le rate, quindi si può prolungare all'infinito questo meccanismo che giustamente citavi all'inizio della trasmissione, mentre le carte ricaricabili, anche in questo caso, utilizzano dei soldi che vengono versati dall'utente, dal titolare sulla carta stessa e non un credito che venga messo a disposizione dalla banca. Quindi anche in questo caso non si pagano interessi se non le commissioni sulle ricariche e sugli utilizzi. Sì, semplicemente è un modo per, come dire, confinare la capacità di spesa dell'utente in base a quello che l'utente ha davvero a disposizione, per cui decide per questo mese, per questo evento, per questa situazione voglio spendere fino a, e si pone un tetto che è contenuto nelle risorse che ha. Questo è con le prepagate, che quindi non vanno confuse. Assolutamente confuse. Qual è il tasso di usura, Andrea? Il tasso di usura per il credito revolving, quindi legato a questi strumenti, raggiunge il 25% per importi fino a 5.000 euro e scende al 19% se si sale al di sopra dei 5.000 euro. Questo è il tasso soglia fissato dalla Banca d'Italia. Ora, perché ci chiede Paolo tramite SMS, ma queste carte revolving superano il tasso di usura? Non superano il tasso di usura nei tassi di interesse, ovviamente prolungando appunto il meccanismo all'infinito e continuando a spendere si possono raggiungere importi che sono molto vicini. Nel caso in cui ci si accorga che il totale pagato si avvicina o supera il tasso di usura, c'è l'antitrust che ha messo a disposizione dei consumatori un numero verde per segnalare proprio casi come questi, oppure ci si può rivolgere appunto alle associazioni dei consumatori che spesso offrono sostegno e sono pronte anche a costituirsi parte civile, appunto come nel caso dell'Adusbef. Ora, era praticamente sconosciuta fino a qualche anno fa questa carta di credito revolving su cui l'economia americana si è appoggiato il proprio anche benessere, perché era normale un indebitamento negli Stati Uniti, in Canada, in Nord America, che fosse superiore anche all'equity a disposizione delle famiglie, anche al capitale a disposizione. Era normale, si viveva semplicemente con queste carte di credito che permettevano di acquistare tutto ciò che si desiderava, pur non avendo né in tasca né in banca il denaro, e poi si contava sul fatto che grazie a un'economia che comunque teneva si sarebbe ripagato man mano il debito, aspettando momenti migliori, senza nemmeno farsi troppe domande. È diventato palese il meccanismo piuttosto vizioso durante la crisi, e allora di colpo anche negli Stati Uniti associazioni a tutela dei consumatori hanno cominciato a fissare dei paletti e a mettere fine a certe pratiche decisamente preoccupanti. Mentre di là si cerca di mettere fine a questa diffusione, sono 1,5 miliardi le carte di credito diffuse, in Italia si diffondono, sono oggetti comunque figli della crisi, si può dire che questa diffusione in qualche modo aiuta le famiglie a non rivolgersi ogni volta allo sportello bancario, a non umiliarsi a chiedere un prestito. Leonardo Peruffo, presidente dell'Associazione Europea dei Consumatori? Sì, questo senz'altro, ma quello che è importante è che è stata allargata anche la forbice dei clienti, nel senso che anche ai processati che fino a poco tempo fa non riuscivano ad avere nessun credito dalle banche, è stata data la possibilità di operare attraverso queste revolving card. Quindi non per colpevolizzare quelle che possono essere queste persone anche sfortunate o persone bisognose, ma allargando questa possibilità, noi abbiamo visto che gestendo anche alcuni casi attraverso l'ABF, proprio l'impossibilità di capire e quindi di gestire il contratto che si va a firmare. Continuiamo con questi dettagli e soprattutto con consigli su come proteggersi. Tra poco c'è anche chi punta il dito sull'utilizzo di queste carte e dice: beh, è colpa di chi vuole indebitarsi, acquistare oggetti che non può permettersi, tutti a lamentarsi, e poi cosa si fa? Spunti di vista, i 1,000 aspetti dell'attualità. Stiamo facendo shopping, ci indebitiamo per acquistare oggetti che non possiamo permetterci, questo ci segnala un ascoltatore, ma altri fanno capire come spesso si sia vittima un po' di pubblicità ingannevole e un po' della scarsa consapevolezza di quale tasso di interesse ci viene applicato con questo metodo. Voi avete segnalazioni in questo senso all'Associazione Europea Consumatori, Peruffo? Sì, sicuramente, ma le problematiche sono soprattutto su quelli che sono il calcolo degli interessi, vengono calcolati furbescamente, anche quasi sempre aumentati, oltre i limiti di legge, e quindi queste anomalie contrattuali fossero dimostrate, sicuramente ci sarebbe l'annullo di tutti gli interessi. E ci sarebbe anche la possibilità di far restituire da quello che è il consumatore soltanto il prestito puro. Con la possibilità dunque di gestirlo anche meglio. Giuseppe, buongiorno. Abbiamo questo ascoltatore che da Napoli vuole raccontarci la sua esperienza. Buongiorno Giuseppe, dica. Buongiorno. Io esperienza di utilizzo di carta di credito un po' particolare, non so. Revolving card? Sì, io feci un prestito con la mia agenzia bancaria, si appoggiava a una società finanziaria, la quale insieme al prestito mi diede una carta di credito revolving. Sì. In seguito ho utilizzato questa carta per un anticipo contanti. Quindi l'ha utilizzata come un bancomat? Sì. Diciamo così. Perché questo è, è l'atteggiamento e l'utilizzo un po' più insidioso, e poi è riuscito a restituire il prestito. Il problema è stato proprio questo, che nel momento in cui mi sono accorto che diciamo mensilmente mi davano un tasso di interesse abbastanza alto, non mi ricordo precisamente quanto, volevo azzerare il debito che avevo sulla carta. A quel punto mi è stato detto che potevo massimo, cioè non potevo alzare il debito, dovevo alzare la soglia del pagamento fino a un massimo di 400 euro. Quindi per 5 mesi ho pagato questi 400 euro che erano compensivi degli interessi, fino a che sono riuscito ad azzerare la carta senza poterlo fare prima in contanti. E in totale quanto ha pagato di più rispetto a quello che aveva chiesto? Guardi, non glielo so dire, comunque era un tasso di interesse intorno al 20% annuo. Grazie Giuseppe da Napoli, 800 24 00 24. Ecco, io ho trovato interessante questa risposta alla domanda quanto ha pagato di più. Non glielo so dire, è proprio questo che è insidioso, Elio Lannutti. Intanto ecco, bisogna conoscere questi strumenti per poterli utilizzare. L'anticipo contante che viene offerto dalla maggior parte delle carte di credito ha un tasso di interesse del 4% al mese, quindi glielo ricordo io al signor Giuseppe di Napoli, 48% l'anno, tasso semplice, superiamo il 55% tasso composto ricapitalizzato. Quindi però ha notato che non c'è consapevolezza di questo? Certo. Ha notato che lo facciamo senza accorgercene, cioè se io andassi in banca e dicessi se mi dai 10.000 euro, quelli mi dicessero sì, te li do, in un anno mi paghi il 48%, prendi e te ne vai. Quando invece ce l'hai in tasca, con la possibilità di accedere a contante, di pagare un debito, di non di ritardare un acquisto, dice vabbè, adesso lo prendo, poi quando li avrò il mese prossimo ripago, e invece stai ripagando il 48% in alcuni casi. E per questo è importante l'informazione, io ringrazio Radio 24 che sta dando proprio le istruzioni ai cittadini, senza demonizzare, ripeto, perché è uno strumento utile per l'economia, però l'economia fondata quasi esclusivamente sul debito, come quello americano, oppure sui prodotti derivati, quegli strumenti diabolici che sono 700.000 miliardi di dollari contro un PIL di 60.000 miliardi di dollari, insomma portano davvero alla bancarotta inconsapevole delle famiglie oppure degli utilizzatori, come dimostra il caso di Giuseppe. Quindi conoscere i contratti, leggere attentamente anche se ci sono postille, clausole contrattuali. Ma lui ha detto che gli è stato vietato di estinguere il debito. Questo è un altro aspetto inquietante. Cioè lui ha chiamato, ha detto adesso basta, io voglio estinguere. No, al massimo puoi aumentare l'importo di pagamento, però gli ha messo un tetto. Cioè lui poteva restituire fino a 400 euro al mese e non poteva restituire di più pur volendo farlo. Sì, è come le polizze pluriennali. Noi abbiamo una polizza pluriennale, mettiamo, per assicurarci da un evento, e non sappiamo che non si può estinguere quella polizza se non dopo che nel contratto sono stati fissati gli anni, quindi è lo stesso principio. Allora bisogna che i consumatori devono ritornare alla realtà, cioè questa vita drogata del credito facile e dei debitori cronici, come sono centinaia di milioni di consumatori americani. Io voglio ricordare che in America il debito sulle carte di credito è in media di 45.000 dollari, cioè quasi ogni americano ha un debito con la sua carta di credito. E poi lei ha detto di solito ne hanno due o tre, di solito. Quindi bisogna ritornare alla buona, io sono figlio dei contadini, la buona cultura contadini, fare il passo secondo la gamba, quello che ci si può permettere. Lannuti, lei ha ragione, però al di là del comportamento del debitore cronico che spesso, come ha visto, è figlio della crisi, quando lei al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello Sviluppo Economico ha fatto proprio un'interrogazione su questo tipo di diffusione nel paese di queste revolving car, cosa si aspettava? Cioè cosa può fare il governo per mettere fine da parte delle aziende che mettono queste carte a pubblicità ingannevole, a comportamenti che spingono in quella direzione, al di là dell'aspetto psicologico di chi non dovrebbe caderci? Quello che sta facendo lei oggi, Radio 24, cioè l'educazione al consumo consapevole. Se un cittadino, e ci auguriamo che nessuno lo debba fare, lo possa fare o lo faccia, strozzato dal debito, insomma, si dà fuoco davanti magari a un'agenzia fiscale, ecco, bisogna evitare questo, bisogna evitare che si arrivi proprio a una situazione, diciamo, drammatica, e che magari si arrivano anche a gesti estremi. Se si fa un'informazione, poi uomo avvisato, mezzo salvato. Il 50%, secondo l'esperienza nostra, noi abbiamo all'attività 27-28 anni di vita di difesa dei consumatori, siamo una delle associazioni più specializzate nel settore creditizio finanziario e una anche delle più antiche, delle più vecchie. Il 50% di coloro che si rivolgono a noi non sapevano, non conoscevano il tasso, non sapevano le condizioni. Sì, sì, perché è emesso in modo tale che non sia la prima cosa che balza all'occhio, attenzione, anche nei bollettini, negli estratti conto che arrivano. Grazie a Elio Lannuti. E Andrea Curiato, collaboratore del Sole 24 Ore, specialista proprio in questo tipo di strumenti. Ora ci vorrei utilizzare i tuoi skills, la tua esperienza, per fare ancora una volta una differenza tra questa revolving card e la carta di credito regolare, quella che tutti hanno in tasca e che di solito estingue il debito il mese successivo. Questo ce lo segnalano anche i nostri ascoltatori con l'SMS, dicono ci siamo sempre trovati bene con questa. Sì, anche in questo caso la differenza è la medesima, ovvero non si chiede un fido alla banca, non si chiede una linea di credito alla banca, semplicemente si salda a fine mese sul contante disponibile nel conto corrente e pagando le commissioni legate alle transazioni. Quindi c'è una grande differenza con la revolving card. Sì, assolutamente, assolutamente. È chiaro che anche in questo caso bisogna prestare attenzione agli acquisti effettuati con carta di credito per non eccedere rispetto alle disponibilità finanziarie che si hanno sul conto corrente. Vabbè, ma questo fa parte della maturità, insomma, questo, di sì, consumatore di ognuno. È ben diverso essere tratti in inganno, è ben diverso non essere informati sul fatto che un giorno non potrai estinguere il tuo debito anche volendo, perché su quel meccanismo, l'abbiamo sentito all'inizio, il meccanismo della goccia del bicchiere dell'anfora, su quel meccanismo si alimenta l'entrata delle agenzie che emettono queste carte di credito e che sperano che tu non possa estinguere mai il debito, perché continuerai per anni a versare quella goccia che però ti verrà annullata da tassi di interesse, come avete sentito, che vanno in media. Di che media parliamo adesso, a parte i casi terribili del 48% che abbiamo sentito? Di che media parliamo, Andrea Curiato? La media rilevata dalla Banca d'Italia si attesta a un tasso del 17% se si utilizza la carta per diciamo ottenere un credito inferiore ai 5.000 euro, che è un po' la soglia discriminante, e invece scende al 12% se si sale al di sopra dei 5.000 euro. È interessante comunque notare che si tratta di diversi punti percentuali in più di costo rispetto anche a un credito finalizzato che avrebbe lo stesso scopo, cioè appunto rateizzare gli acquisti di elettrodomestici o di qualsiasi altro bene. Sono indignato, ci scrive un ascoltatore, queste carte revolving andrebbero proibite. E su questo allarme, questo messaggio estremo, ci salutiamo. Leonardo Peruffo, Andrea Curiate, Elio Lannuti, i nostri ospiti, grazie per i contributi che ci avete dato. Tra pochissimo parliamo di italiani, non hanno voglia di lavorare, questa la verità, almeno così dice un imprenditore dalle colonne del Corriere della Sera. Lui non riesce a assumerne di italiani nella sua fabbrica da 230 milioni di fatturato, perché in realtà non hanno voglia di fare sacrifici. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Laureata precaria che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia. Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria. Vuole un bel coraggio se fai volantinaggio a maggio, con lo svantaggio dei problemi che può darti un vecchio motorino della Piaggio, che si inchioda senza broda poco prima che cominci il viaggio. Se per disperazione urli qui nessuno sente, è come fare la centralinista in un call center. Meglio di niente, risolvere faccende della gente che chiama e poi ti offende. Ti somiglia quest'Italia confinata dall'impero, sembra un portaborsa inutile che bussa a un ministero, ma nessuno gli risponde. Riusciremo a fare anche tutta la trasmissione in rima, ma chi lo sa. Simone Cristicchi raccontava questa realtà della laureata precaria che poi si accontenta, svolge un po' tutte le mansioni, tutti i lavori, perché di meglio non ha trovato. Altri dicono: non è vero, chi ha voglia di lavorare invece può farlo. E sono un po' tutto frutto del fatto che siamo viziati, come diceva il ministro Fornero. Gli italiani sono chiusi, vogliono solo il meglio, di conseguenza non riescono a trovare lavoro. Dove sta la verità? Ditecelo voi, 800 24 00 24. E ce lo può dire anche Davide, che si trova a Imola. Pronto, buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno a voi. Davide, quanti anni hai? Io ho 40. 40 anni. Quindi, secondo te questi giovani non hanno voglia di lavorare? C'è un problema in Italia relativo al lavoro, o semplicemente, come segnalava ieri il Corriere della Sera con la testimonianza di un imprenditore in provincia di Treviso, la verità è che gli italiani non hanno fame? No, questo può succedere, può capitare quando le famiglie, le persone hanno delle aspirazioni per una vita migliore, come credo sia giusto anche in una società come la nostra. Nella gran parte dei casi però non è così. Oggi viviamo ormai da decenni in situazioni in cui i ragazzi accettano di tutto, soprattutto quando hanno studiato, hanno costruito anche delle passioni, hanno delle capacità, delle abilità che vogliono mettere a frutto, e pur di mettere a frutto accettano qualunque cosa. Io conosco tanta gente che fa l'architetto a 600 euro al mese per uno studio da anni, per un altro architetto, e però si accontenta di quello pur di fare curare la passione che ha, o l'archeologo, oppure tante persone che lavorano nei call center per 2 euro all'ora. Insomma, non è proprio generalizzabile la situazione che ha raccontato l'imprenditore veneto, che pure esiste. E quindi secondo te esiste anche questa realtà di quello che va al colloquio con la mamma, così ha raccontato l'imprenditore veneto che abbiamo cercato, ma evidentemente è in vacanza per Ferragosto, non riusciamo a trovarlo, va al colloquio di lavoro con la mamma? Oppure, racconta, pochi giorni fa avevamo contattato un neolaureato in ingegneria aerospaziale, ci ha detto che sarebbe venuto se lo avessimo mandato all'estero. Gli ho risposto che volevo rifletterci 2 giorni, ma quando l'ho richiamato per annunciare che lo avrei inviato nella nostra sede in Canada, aveva già trovato un altro posto in Germania. Questi in Italia, conclude, proprio non ci vogliono stare, e non ci vogliono stare per un sentimento così di anti-italianità diffuso, perché hanno voglia d'avventure, o anche forse perché la politica salariale, adesso riassunta brevemente nella canzone che abbiamo lanciato all'inizio, con quei 400 euro al mese, ma di poco da questa cifra si discostano gli stipendi italiani, potrebbe essere una leva per per far sì che questi laureati qualificatissimi che la Germania ricerca, ma non solo, sono tantissime le destinazioni in Europa, in Nord America, in Sud America anche. Questa meta si è unita alle tradizionali che questi paesi ci richiedono. Lo chiediamo a Walter Passerini. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Walter Passerini, editorialista della Stampa, ti sei occupato varie volte della questione dei salari in Italia e ci chiedevamo, chissà, forse se pagati di più, questi ragazzi avrebbero più voglia di lavorare da questa parte. Sicuramente, perché la remunerazione, che non è fatta soltanto di stipendio, di soldi, ma è fatta anche di benefit che si possono avere. Ebbene, anche perché si sta aprendo tutta questa partita non strettamente monetaria, è una leva, quella della remunerazione molto, molto importante, però insieme a quella dei servizi al lavoro e quelle delle culture al lavoro. Ma per stare sulla questione salariale che esiste, allora noi come facciamo a valorizzare dei giovani a cui diciamo studiate, studiate, studiate, ai quali poi proponiamo un impatto col mondo del lavoro molto negativo, fatto di lavoro intermittente, ma soprattutto di bassissimi salari, 400-500 euro al mese, tanto da poter dire se potessi avere 1000 euro al mese sarei quasi felice, insomma. Quindi Cioè, c'è un secondo lei problema. Passerini, secondo te la generazione 1000 euro di cui si parlava una volta prima della crisi a tinte Magari. fosche, ormai è diventato un orizzonte a cui tendere? Sì, perché ormai la media grossa dei ragazzi che sono costretti appunto a, come dei tanti bricoleur, no? A facer, in un mondo in cui tutto è un fai da te, sono un po' costretti ad accettare per lunghi periodi anche 400, 500 mortificanti euro, perché gli abbiamo detto che lo studio sarebbe servito, ma in realtà l'impatto è estremamente negativo. Quindi c'è certamente un problema di collocare lo studio in un percorso verso il lavoro e non soltanto così verso gli interessi soggettivi. Ma dall'altro lato bisogna davvero porsi la questione degli stipendi. C'è una zavorra sicuramente di debiti, contributi, di fisco, il cuneo fiscale che Cuneo va fiscale, chiaro, assolutamente che affrontato, pesa. però c'è il fatto che il lavoro vale poco. Il lavoro nella cultura, non solo economica, nella cultura sociale del nostro paese, dell'Italia, il lavoro non ha più il valore che aveva per mio nonno e per mio padre e per me, per esempio. Quindi è davvero un problema di cultura, di valore del lavoro e quindi se il lavoro ha un valore va pagato e va pagato molto di più di quanto non si paghi oggi e non in modo piatto, in modo possibilmente che sia capace di riconoscere il merito di ciascuno. Tra l'altro, i nostri neolaureati sono molto apprezzati all'estero, al punto che ci segnalava ieri l'ambasciata italiana a Berlino e si sta pensando con le autorità tedesche, che si sono già mosse contattando gli italiani, di intervenire su ciò che l'Italia offre in termini di capitale umano, così da convogliare quelle che sono le risorse in settori specifici. Cioè è già sorta una collaborazione per far sì che queste possibilità di impiego in Germania, concrete, non ovunque, veniva specificato dai tedeschi e anche dall'ambasciata, ma ne parleremo in una puntata successiva in cui andremo a fondo proprio delle nuove mete del lavoro e dei laureati che lasciano l'Italia, così che queste risorse umane, perché tale le considerano gli altri, vengano valorizzate al massimo. Noi invece, sempre qui a considerare i giovani non solo persone da sfruttare e sottopagare, ma anche persone da non coinvolgere in quelle che poi sono le decisioni aziendali, anche una volta assunti. Cioè, c'è una questione di valorizzazione che passa dal salario, senza dubbio, Walter, come sottolinei tu, ma anche dalla possibilità, una volta entrati in azienda, di non rimanere sempre ultime ruote del carro. Sì, tanto più che si sta verificando un fenomeno veramente preoccupante, e che è quello che molti giovani, per riuscire a trovare un lavoretto che non è un lavoro, in qualche misura sottodimensionano il loro curriculum, cioè falsificano il loro curriculum Al ribasso? omettendo la laurea, per esempio, non dicendo sono laureato, no, sono diplomato, ho fatto qualche lavoretto, eccetera. Quindi, insomma, stiamo deprimendo il lavoro e stiamo deprimendo lo studio. Allora, come uscirne? Perché poi il problema è come uscirne. Io credo che bisogna davvero valorizzare il lavoro anche attraverso i mass media. Noi abbiamo parlato per anni di precarietà, questo mantra che sicuramente è reale, che la precarietà esiste, non è un'invenzione dei giornali. Però attenzione, ecco, cerchiamo di dare anche delle prospettive a questo disegno di precarietà che ci opprime per andare verso una capacità di costruzione del lavoro. Poi manca l'orientamento ai servizi nel nostro paese, perché che la Germania chiami dei nostri ragazzi ci fa solo piacere, ma in Italia le reti dei servizi non chiamano i nostri ragazzi, quindi preoccupiamoci anche delle reti dei servizi al lavoro pubbliche e private italiane. E poi davvero diamo ai giovani la possibilità di crescere. I giovani vogliono andare in un'azienda che li aiuti a crescere. Non solo che dia uno stipendio, ma che aumenti, esatto, le loro competenze, che li coinvolga, perché questa è la grande differenza che ho visto anche vivendo all'estero. Non solo i giovani se li litigano le altre aziende, cioè quelli che tremano, quelli che pensano che salterà il loro posto di lavoro, sono persone dai 40 anni in su, ogni volta che c'è una ristrutturazione, perché si sa che per mantenere competitiva un'azienda, quell'azienda andrà a pescare nel mercato di quelli che noi qua definiamo stagisti e nemmeno li paghiamo, cioè nel mercato dei neolaureati, perché loro innoveranno, loro ti creeranno un rapporto con il pubblico dal sito al nuovo linguaggio, certo, che sarà competitivo. Quindi chi trema è chi ha già superato i 30, i 35, i 40, i 22 anni, i 23 anni non hanno problemi, sanno di essere contesi. È importante questo aspetto della valorizzazione. In Italia il lavoro si trova tramite la rete di conoscenze, anche senza pensare alla malafede, alla raccomandazione. Si trova con gli amici, con chi ti può segnalare se vali, e questo non è degno di un paese del G8, ma ci torneremo. Vogliamo sentire come la pensate anche voi, 800 24 00 24. Intanto ci dice Paolo che non sono solo i giovani ad avere questo problema, è vero. Ho due lauree, 53 anni e faccio il veterinario, faccio comunque fatica a pareggiare i costi. La lamentela dunque non solo di chi il lavoro può guardarlo da lontano e non ce l'ha, ma la lamentela di chi ce l'ha ed è costretto ad abbassare a sua volta tariffe e naturalmente entrate, perché c'è anche un problema di potere d'acquisto. Lo stipendio e le remunerazioni non si misurano solo in termini assoluti. Da un'altra parte qualcuno ci sottolinea come e perché bisogna sempre rivolgersi agli stranieri quando tanti di noi italiani sono disoccupati. E saluto e ringrazio per il suo tempo un altro economista oggi con noi, ingegnere economista è stato presidente di Nomisma, Nicola Cacace. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Senta, lei ha avuto un osservatore privilegiato dei fenomeni economici e sociali e l'avrà sentito dire tante volte: gli stranieri ci rubano il lavoro quando ci sono tanti disoccupati. Come può in Italia convivere, a fronte di una disoccupazione del 39,1% nel segmento giovanile, anche l'occupazione di 3 milioni di stranieri? Cosa risponde? Questa quota così alta di immigrati che lavorano dipende da due fatti strutturali. Prima, sono 30 anni che gli italiani fanno la metà dei bambini di 50 anni fa. Prima nasceva, fino al 75-80, nasceva 1 milione di bambini l'anno, con una popolazione più piccola di questa. Dal 75 a oggi nasce 500.000 bambini l'anno, quindi dopo 20 anni c'è un gap, c'è un vuoto. Quando 10 pensionati vanno in pensione, 10 sessantenni vanno in pensione, ci sono 5 ventenni che sono nati 20 anni fa. E quindi questo è un primo fatto oggettivo, c'è un vuoto demografico. Il secondo fatto è che l'Italia è il paese europeo in cui ci sono le distanze più alte fra le paghe top e quelle bottom, diciamo, tra le alte paghe. Cioè, in nessun paese europeo un infermiere professionale è pagato meno di di 3.000 euro al mese, mentre invece in Italia ne prende meno della metà. E questo vale anche per gli insegnanti, vale per moltissime categorie. Vale per gli insegnanti. Perciò quando si dice cercano di andare all'estero, certo, cercano una ecco un infermiere che sta qui in Italia che guadagna 1.200-1.300 euro, se va in Svizzera, in Germania, in Austria, in Francia, per non parlare dei paesi più vicini, ne prende più del doppio. Quindi perché dovrebbe restare in Italia e questo capita anche per tutti gli altri operai specializzati, qui c'è la carenza di si dice qui ci lavori falegname, idraulico, minatori, piastrellisti, elettricisti, tecnici, qui ci stanno solo offerte di lavoro per golf, badanti, camerieri, edili, che però siccome sono pagati mungitori. Male, a questi rispondono solo gli immigrati che vengono da paesi ancora più disgraziati. Quindi c'è un mercato parallelo, cioè l'offerta di lavoro. Ci sono due mercati del lavoro in Italia, c'è il mercato del lavoro per gli italiani, che va abbastanza bene ai giovani italiani, che è da un certo livello in su, e c'è il mercato del lavoro che è rifiutato completamente dai giovani italiani, non solo perché sono lavori umili naturalmente, come colf, badanti, camerieri, anche infermieri, edili, allevamento. Ma perché sono pagati male. Concerie. Grazie. Che sono pagati male. Grazie. Nicola Cacace. Vogliamo dar voce anche agli ascoltatori prima di tornare ai nostri analisti. Quindi cominciamo con le telefonate all'800 24 00 24 perché il problema del lavoro non risparmia nessuno e chi ce l'ha e si lamenta delle condizioni in cui viene svolto, del salario che percepisce e chi invece lo sogna. Stefano, buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Treviso, salve. Salve, quanti anni ha lei Stefano? 35. Si considera giovane, un ragazzo? Assolutamente sì, ci mancherebbe pure. No, non dal punto di vista esistenziale, dovessi assumere dal punto di vista lavorativo, lei si porrebbe di fronte a me come un junior? O si considera? Io mi porrei con delle competenze che sono assolutamente state acquisite in molti anni di lavoro e nello stesso tempo pronto ad essere flessibile a prendere in considerazione qualsiasi altra esperienza lavorativa e qualsiasi anche altro programma di professionalizzazione che vogliono mettermi a fare. Se lei parlasse con l'imprenditore veneto Pagotto, che ieri dal Corriere ha lanciato questo appello, io assumo solo stranieri perché gli italiani in realtà non hanno voglia, non hanno fame. Scusi se mi permetto di dirlo, per il semplice fatto che io da precario della pubblica amministrazione che a fine anno al 99% mi troverò a casa grazie alla legge Fornero, mi trovo assolutamente nelle condizioni di aver fatto, posso dire tranquillamente, migliaia di risposte a qualsiasi proposta di lavoro e mi è stato detto da una parte che ero troppo qualificato, dall'altra non mi hanno assolutamente richiamato e dall'altra ancora dicono che io non sono pronto a fare sacrifici. Lei la laurea ce l'ha? Ne ho due, una in storia e una in biblioteconomia ed archivistica che è stata presa a metà all'estero, quindi ho anche l'esperienza all'estero. Nonché a marzo mi masterizzerò in pubblica amministrazione di secondo livello. Quindi farà il master, conseguirà il suo master? Sì, quasi. Questo non vuol dire che io non sono pronto a fare il mungitore, anzi mi ero messo a disposizione, visto che io ho 35 anni e quasi 20 anni di contributi, perché ho cominciato a lavorare a 13 e mi sono laureato sempre lavorando di notte nei vari locali, quindi ho un'esperienza quindicinale anche di cameriere e questo fa sì che io sono pronto a fare qualsiasi sacrificio. Grazie, Stefano. Concluda brevemente perché dobbiamo far parlare anche altri. Io volevo solo ed esclusivamente fare una richiesta. Dateci la possibilità di un futuro, per il semplice fatto che non è che noi non abbiamo voglia di lavorare, noi vogliamo poterci sposare, vogliamo poter avere dei figli, vogliamo far sì che una volta che entriamo in banca ci diano almeno un barlume di speranza per avere una possibilità di mutuo. Molto chiaro, grazie, grazie Stefano, è più che legittimo, insomma, 35 anni, richieste che una volta potevano venire da ventenni, diciottenni. E andiamo in Veneto con Giuseppe Bortolussi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Giuseppe Bortolussi è segretario della CGA di Mestre, uno scenario piuttosto inquietante quello che abbiamo sentito. Ha sentito questo Stefano, questo ascoltatore che ha chiamato in questo momento, certo non si può dire un fannullone, un lazzarone, uno che non si è messo in discussione, due lauree, un master, disposto a fare il cameriere, lavora da quando ha 13 anni? Guardi, il discorso è che c'è certamente un mismatch, c'è uno scollamento tra quello che i giovani cercano, vogliono per la loro vita, per il loro futuro e quello che il mercato offre. Ritorniamo un po' indietro, io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto Passerini e quello che ha detto Cacace, persone che conoscono molto bene questo argomento e condivido molto, quasi tutto quello che hanno detto, però dobbiamo tener conto del fatto che in Italia, per esempio, le richieste, quelle che si ricavano da Excelsior, che è una banca dati fatta dal Ministero del Lavoro, da Unioncamere d'Italia, da cui si vede che non cercano solo infermieri, non cercano solo badanti, ma cercano anche fresatori, tornitori, muratori, cioè figure che in Italia non trovi più. Io lavoro in un'associazione di artigiani dove conosciamo bene queste cose, beh, certe figure professionali non le trovi neanche se vuoi. Allora lo scollamento è tra certe lauree, come quelle importanti per carità, in letteratura, in storia, in scienza delle comunicazioni, e la richiesta del mercato. Ora, molte aziende. Ma non è dovuto, scusi Bortolussi, anche al fatto che in Italia non ci sia un sistema, non c'è dialogo, interfacciamento tra l'università, la scuola superiore e il mondo del lavoro, cioè ci si muove sulla rete delle amicizie personali, perché fresatori ne escono anche dai nostri istituti tecnici. Esatto, e guardi, e le assicuro che il 98% trova lavoro subito, poi anche la possibilità di scegliere. Fino a poco tempo fa in Veneto c'era una mobilità del 50%, il che significa che la gente cambiava lavoro per migliorare almeno una volta all'anno. Il discorso è questo, che c'è questa sfasatura, c'è questa poca attenzione. Pensi solo a questa, che sembra una banalità. In Italia di imposte, tasse e tributi, cioè pressione tributaria, sì, si pagano 6,5 punti più della Germania. Ma in Germania, come in tutti i paesi europei, esclusa Italia, Grecia e Ungheria, c'è il reddito minimo garantito per i giovani. Ora, con età diverse, con modalità diverse, ma anche in Slovenia i giovani prendono 200 euro al mese. Prendono in Francia 480, in Germania lo stesso. Questo dà loro la possibilità di, invece di essere legati alla famiglia, di spostarsi, di andare in altre città, di frequentare certe università o certi istituti tecnici, di sviluppare anche una mentalità, esatto, diversa, allora noi, più flessibile. Esatto, paghiamo più tasse, ma diamo ai nostri giovani meno possibilità, li teniamo. Qualcuno diceva bombottoni. Cioè il peso sull'impresa è maggiore qui, mentre invece è chiaramente il reddito minimo garantito, che in alcuni paesi si chiama reddito di cittadinanza, ci sono varie declinazioni. Là è a carico dello Stato, così che il costo del lavoro finale per l'imprenditore non sia dell'entità che invece sappiamo in Italia, il peso del fisco sui salari, che a loro volta comunque sono inferiori alla media dei paesi industrializzati. Anche se analizziamo il lordo, comunque sono inferiori alla media degli altri paesi. In più c'è questo cuneo fiscale che fa sì, certo, che tra quello che l'azienda sborsa e quello che arriva in tasca, sì, veramente all'operaio, al lavoratore, al dipendente in generale, e sia veramente molto molto basso. Eccezione a parte i manager, ma su questo andremo tra pochissimo. Ci sono gli ascoltatori che vogliono raccontare la loro esperienza all'800 24 00 24, perché questo è un problema che, come abbiamo detto, tocca davvero tutte le famiglie italiane. Allora ci dedicheremo a questo fino alle 10, linea alla regia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito. Era una voce che avete riconosciuto? Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 9:30. Allora, gli italiani non hanno fame. Elsa Fornero, ex ministro del lavoro, diceva che sono chiusi, cioè un pochino troppo schizzinosi. Prima prendete il lavoro che vi capita e poi da dentro cercherete di migliorare la vostra situazione. Come la pensate? È davvero così? Gli italiani non hanno fame? Per questo imprenditore da cui siamo partiti nella nostra ricerca, Giovanni Pagotto, presidente di Arredo Plast Spa, una holding di Ormelle, cioè in provincia di Treviso, 230 milioni il fatturato nel caso ve lo steste chiedendo, in pratica è il fornitore di prodotti in plastica per l'IKEA e non solo. Ecco, lui ha detto: il 90% dei miei dipendenti sono stranieri e i capi turno sono in larga misura extracomunitari perché sono disposti a lavorare 3 turni 7 giorni su 7, invece gli italiani questo non lo farebbero mai. Nello stesso momento la cronaca ci segnala che poche settimane fa, quando IKEA apre a Pisa, quindi c'è la possibilità di riempire, mi sembra, qualcosa come 250 posizioni, i curriculum che arrivano sono 28.000. Ecco, sembra la fotografia di due Italie che convivono o due Italie contrapposte. Cosa sta succedendo? Pino dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo confermare il fatto che i giovani, secondo me, invece si prestano a qualsiasi tipo di offerta, fanno i salti mortali, sono molto professionalizzati o comunque sono molto preparati e sono veramente disponibili ad accettare tutto e a volte si meravigliano, perché io ho 50 anni, quindi non sono un giovane. Glielo stavo chiedendo, quindi lei come lo sa? È addetto alle assunzioni? No, perché io ho lavorato per anni all'interno di una cooperativa sociale e ho lavorato con persone che hanno la mia età o anche di più e poi negli ultimi anni sono entrati a far parte dello staff dei ragazzi giovanissimi che si sono adattati a paghe da fame. Noi non abbiamo avuto adeguamenti per circa 10 anni, cioè l'unico adeguamento è stato di 50 centesimi netti orarie, wow, in 10 anni, quindi insomma una cosa ridicola. Comunque io, avendo lavorato anche in precedenza in altre situazioni di cooperative sociali o comunque di associazioni che si occupano di problemi di carattere sociale, avevamo anche un supporto di carattere sindacale. Nel momento in cui c'erano dei problemi si riusciva comunque a far valere dei diritti che per questi ragazzi non esistono proprio. Io me ne cioè la sua generazione dice aveva delle tutele che questi ragazzi possono solo sognarsi. Ce la sognano, poverini. Certo. Al di là del salario, ha fatto bene a sottolineare anche questo. Grazie a Pino. Andiamo in provincia di Trento. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono Claudio. Salve Claudio. Ho 48 anni. Sì. E volevo semplicemente raccontare la mia esperienza e fare solo una considerazione riguardo alle persone che non che fanno difficoltà a trovare lavoro, ma quelle che sono proprio a casa. Allora, io 8 anni fa avevo un lavoro come dipendente, però rinquadrato come cocco, e dall'oggi al domani sono rimasto a casa, mi hanno liquidato, ok, ciao, non ci servi più. A quel punto mi sono mosso a 360 gradi e ho iniziato a fare il venditore di materassi facendo le classiche dimostrazioni a casa, perché quello è quello che ho trovato. Quindi lei ci sta dicendo non è vero che si è schizzinosi? Almeno da parte mia no. Io non mi ritengo uno schizzinoso, quello è quello che ho trovato, avevo una famiglia, due bambini da portare avanti e ho guadagnato molto bene. Poi ho iniziato a fare l'agente di vendita da 2 anni e adesso ho preso il mandato per un'altra azienda e mi sto dedicando anche a fare del network marketing. Il suo messaggio dunque, la sua risposta all'imprenditore che dice gli italiani non hanno fame? Allora, secondo me in parte è vero, nel senso che è vero che l'IKEA ha avuto 25.000 domande, ma l'IKEA a mio avviso è visto come il lavoro sicuro. e allora fioccano le domande. La mia preghiera è alle persone che sono a casa, perché mi è capitato di fare proposte di lavoro a persone che erano a casa. E cosa le hanno detto? Guarda che io sto facendo questo, tu sei a casa, è del tempo libero, prova. E mi hanno detto, la reazione? Ho fatto una ragazza. Su quante? Una ragazza, ma ho fatto anche degli annunci sul giornale. Cioè lei ha avuto solo una risposta positiva mentre ha proposto questo lavoro, questa attività a diverse persone. Grazie. Grazie, significativo anche questa testimonianza, ci è arrivata dalla provincia di Trento, da questo ascoltatore, Claudio, 800 24 00 24. Saluto e ringrazio per il suo tempo Giuliano Cazzola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei è un economista, esperto di diritto del lavoro, autore di un libro dal titolo molto provocatorio, Figli miei, precari, immaginari. Che riflessioni le suscita queste esperienze multiple che stiamo prendendo in esame oggi? Beh, mi suscitano questa considerazione che è sbagliato fare delle generalizzazioni, è sbagliato dire che i giovani sono tutti ciusi o sono tutti diciamo non volonterosi, come sarebbe sbagliato dire che sono tutti diciamo perseguitati dal destino, dall'economia. Cioè noi abbiamo un'immagine, perché ho scritto quel libro? Perché noi abbiamo un'immagine di giovani che sono perseguitati, no? Quando in realtà dentro a questa situazione ci sono casi di giovani che si attivano, che hanno successo anche cambiando lavoro, e ci sono casi di giovani invece che questi li abbiamo sentiti, li conosciamo ognuno nella nostra esperienza, che in realtà stanno annidati nella famiglia in attesa di fare il lavoro che loro preferiscono, che per cui hanno studiato e non riuscendo a farlo. Io ho avuto un allievo che probabilmente è uno dei più bravi che ho avuto, che ha preso due lauree, con me ha preso la laurea da consulente del lavoro, poi ha fatto i 5 anni, ha fatto la specialistica in giurisprudenza, nel frattempo ha preso anche al conservatorio la laurea, il diploma, non so come si chiama, in violino. Ecco, lui però oggi si trova, pur essendo bravissimo, essendosi laureato a pieni voti in tutti e due i casi, si trova a 29 anni che quando si presenta in azienda gli dicono: beh, certo, lei è bravo, una cosa, però ha 29 anni e non ha avuto nessuna esperienza di lavoro fino adesso. Per cui l'insegnamento di comunque entrare nel mercato del lavoro. Certo, si rischia anche di rimanere intrappolati, no? Però diventa qualunque sia, diciamo così, la porta. Ma secondo lei, professor Cazzola, sì, hanno ancora diritto o è un lusso coloro che si laureano in questi giorni a ambire a qualcosa di più? Perché c'è questa domanda anche tra i nostri ascoltatori. Ora, io le posso dire che io cito sempre dei dati, no? Se lei vede, io lo seguo perché sono amico dell'animatore, del direttore, lo seguo molto, gli vede i dati di Alma Laurea, che ha una sessantina di università collegate e credo 1,7 milioni curricula depositati, no? E ogni anno presenta un rapporto, a un anno dalla laurea, 3 anni dalla laurea, 5 anni dalla laurea, viene fuori che anche in anni di crisi, perché ovviamente pesano molto sull'occupazione giovanile, hanno pesato il 90% dei laureati, più che dei diplomati, diciamo entro i 5 anni trovano un'occupazione che loro ritengono stabile, congrua, che loro ritengono stabile, poi questo non vuol dire diventare tutti statali. Certo, quando l'economia va bene, questo dato si verifica prima dei 5 anni, chiaro. Rimane comunque la laurea, comunque lo strumento più adeguato. Però per esempio quel ragazzo di Treviso che ha telefonato è uno che fa bene ad essere disponibile a fare tutti i lavori, però uno che è laureato in biblioteca trova posto solo nella pubblica amministrazione. Oggi la pubblica amministrazione è difficile che assorba, è un settore che espelle. Che espelle col turnover bloccato, bloccato da anni. Con situazioni e problemi di un certo tipo. E ancora una volta forse ci vorrebbe più contiguità tra quello che è il mondo del lavoro e quello che è il mondo dell'istruzione. Io sono qui in albergo al mare, sono in vacanza, c'è un geometra che fa il cameriere e lui dice: io lavoravo con le italiano. italiano, sì. L'edilizia è ferma, sono 2 anni che non battevo un chiodo, ho pensato di fare la stagione da cameriere. È chiaro che se l'edilizia riprende, lui è uno che ha la sua mestiere di fare il geometra, insomma, però fa bene, secondo me, a non stare a piangersi addosso. Perché poi verrà apprezzato nel corso del successivo colloquio, viene apprezzato. Nel successivo colloquio questa cosa viene apprezzata di uno che dimostra in qualche modo che si è dato da fare. Quindi i colloqui, anche quello è un punto nodale naturalmente, no, di questa problematica. Ci sono che non funzionano, i servizi che non funzionano, ovviamente c'è una riforma universitaria che ha penalizzato i giovani. Io mi sono laureato in giurisprudenza dando 22 esami e questo mio allievo in 4 anni, questo mio allievo ha dato 39 fra esami e integrazione degli esami che aveva dato come consulente del lavoro. È assurdo, insomma, che uno si presenti sul mercato del lavoro 3, 4, 5 anni dopo che lo fa un suo collega inglese o ha una high school, cioè un liceo che nella maggior parte dei paesi è di soli 4 anni, quindi c'è già un ritardo in partenza sull'università. Ma questo è un'altra pagina che oggi non abbiamo tempo d'aprire. E pochi giorni fa avevamo contattato il neolaureato in ingegneria aerospaziale, riprendo quanto dice l'imprenditore sulla prima pagina del Corriere, e questo neolaureato invece ha preferito andarsene in Germania nel giro di 2 giorni, era già stato assunto in Germania, eppure noi l'avremmo mandato nella nostra azienda canadese. Questi in Italia non ci vogliono stare. Questo è un'altra volta l'aspetto della fuga di cervelli, che altrove viene quantificata, perché quanto costa allo Stato italiano formare fino alla laurea un giovane che poi andrà a portare le sue competenze e il suo valore altrove per rendere più competitiva l'economia di qualcun altro. E ancora una volta invece viene data come inclinazione psicologica degli italiani ad andarsene, Walter Passerini, e i servizi per non solo per rendere agevole il lavoro, ma anche per far rientrare questi possibili cervelli, mancano in Italia. Altrove si è organizzati anche in quel senso. Sì, noi prendiamo sempre, come dire, una tangente che è quella di dar la colpa alle persone. Sì. È un linguaggio ambiguo, ma ironico. Perché siamo un paese profondamente familista e iperprotettivo, cioè non siamo un paese normale. Un paese normale è quello che offre ai suoi cittadini, ecco, il diritto di cittadinanza pieno, totale. Una delle componenti di questo diritto di cittadinanza è avere il diritto ai servizi efficaci all'impiego, sia che tu possa lavorare in Italia, sia che tu, italiano scappato, possa rientrare all'estero. Noi siamo all'età della pietra su queste cose, cioè il mercato del lavoro non esiste, o meglio, è una giungla, è un bricolage, è un fai da te, ma non esistono delle regole. Sono scritte le regole, si possono scrivere sul piano del diritto del lavoro i migliori codici del lavoro, ma la realtà va tutt'altra parte. Allora qual è il problema? Il problema è quello di offrire davvero dei servizi alle persone. Quando una persona ha un problema di studio, che cosa posso scegliere per avere una professione, come dire, soddisfacente? Poi la misura della soddisfazione la possiamo anche vedere. Chiede all'amico. No. Oh sì, chiede all'amico, al parroco, al maresciallo dei carabinieri, sì. Insomma al furbo del villaggio, perché c'è sempre uno che ne sa più lunga degli altri, sempre il più furbo. L'amico, no? Di famiglia, sì. Ma sì, ma per l'amor di Dio, la fidanzata, non eccetera, c'è eccetera. Invece anche in no, quel caso non, un sistema, ecco, di informazione strutturato, omologo e omogeneo su tutto il territorio, tra l'altro. C'è una cultura, perché manca proprio questa parte dei servizi. Allora, noi dobbiamo fare orientamento, la colpa non è dei ragazzi, tantomeno la colpa è delle loro mamme e delle loro famiglie, come ho sentito dire da parte anche di un ex ministro del lavoro, che è tutta colpa della famiglia che si vuol tenere i ragazzi. No, se ci fossero dei servizi davvero funzionanti, noi oggi siamo di fronte a un confronto europeo dove facciamo veramente abbastanza, come dire, sorridere, perché noi investiamo 600-700 milioni di euro nelle politiche attive del lavoro, con una Germania che investe 8 miliardi, con una Francia che investe 5 miliardi. Allora vogliamo non solo dare risorse alle politiche del lavoro, che sono politiche di orientamento, di informazione. L'informazione è il bene più prezioso. E poi tra poco ci spiegherà, professor Passerini, come strutturarlo in pratica. Ci spiegherai proprio come un tedesco che cerca lavoro, che è stato ha lasciato l'attività che aveva fino a 5 giorni prima, magari perché licenziato, si può orientare dal giorno successivo rispetto invece a un italiano che deve rassegnarsi e cominciare a spargere il passaparola tra i conoscenti. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. La distanza con il resto d'Europa non è solo in termini di busta paga. Avete sentito, gli investimenti nei servizi per la ricerca, il mantenimento, la riqualificazione del lavoro. E allora dicevamo, prima di dare la linea al traffico e agli aggiornamenti sulle strade, Passerini, dicevamo, un tedesco licenziato la settimana scorsa, diciamo, no? E che risorse ha a disposizione più di un italiano? Sì, in pratica, intanto ha un portafoglio formativo personale probabilmente più orientato alla professione e al mercato della domanda che non ai suoi interessi, ma questo fa parte del sistema dell'istruzione. Poi sul piano dei servizi ha diversi strumenti che noi non abbiamo, o meglio, abbiamo sulla carta. Noi oggi abbiamo 550 sportelli pubblici del vecchio collocamento, sono i centri per l'impiego, e circa 2500 sportelli delle agenzie private del lavoro. Il tedesco ovviamente ha una parte consistente di sportelli che dipendono dalla mano pubblica, perché lo Stato tedesco funziona molto bene, il nostro in questo campo assolutamente no, anche in altri campi per la verità, e quindi ha meno agenzie private come rapporto, ha molti più uffici pubblici, ha la possibilità in Germania di entrare in un ufficio di collocamento e vedersi accogliere con il sorriso sulle labbra. Da noi ha la malinconia di una coda che può durare anche 2 ore di fronte a un impiegato che lo guarda di sottecchi e dice: ma lei cosa mi rompe le scatole a fare? Quindi ha una demotivazione. Ha il reddito di sostegno dal giorno dopo, ha la possibilità di affitti agevolati e di entrare da casa, dal proprio computer, su offerte di lavoro sparse anche in altri lender. Ha internet, ha un sistema di informazione pubblica che noi non abbiamo. Noi abbiamo una cosa che si chiama Click Lavoro, io non la apro più perché piango nel momento in cui la apro, perché non funziona affatto. E poi ha un modello di accompagnamento, ecco, molto importante, cosa che noi non abbiamo, perché noi abbiamo la solitudine. Quando si entra nel mondo del lavoro, quando si perde il lavoro, si è soli e si dice: tu dovresti fare. No, è un sistema di responsabilità che come società civile ci dobbiamo dare, come Stato. E di cui lo Stato dovrebbe farsi carico. Noi oggi abbiamo una sfida che non rubo troppo tempo, che è questa. Noi entro la fine di ottobre dobbiamo procedere alla riforma dei servizi all'impiego in Italia. E non perché l'abbiamo deciso noi dopo tanti bla bla, dopo tante chiacchiere. Ma perché ce lo chiede l'Europa. Perché altrimenti l'Europa non ci dà le risorse che tra l'altro noi non siamo nemmeno capaci di spendere, perché di spendiamo il 40%. Sì. Delle risorse disponibili. L'Europa ci chiede che entro ottobre noi facciamo la riforma dei servizi all'impiego e quindi facciamo tutte quelle cose che l'esempio tedesco ci diceva prima. Perché? Perché dal 1° di gennaio del 2014 noi dobbiamo dare a tutti i giovani, se non una paghetta di 300-400 euro, perlomeno o un'offerta di lavoro entro 4 mesi dalla perdita del lavoro o un'offerta formativa entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo di studio. Ce la faremo? Io penso di sì, spero di sì, ma ci dobbiamo mettere in quest'ottica, perché altrimenti se noi continuassimo a fare il bricolage, il sistema della famiglia, il sistema amicale, la rete delle conoscenze, degli amici, saremo un paese di serie C. Non serie B. Francia, non Germania. Serie B. Addirittura sotto. Grazie a Walter Passerini. Giuseppe Bortolussi, dal punto di vista degli imprenditori, e poi la piccola impresa è quella che regge il tessuto connettivo di questo paese, sarà un passo avanti europeizzarsi in questo modo? Magari, io spero che Walter Passerini abbia ragione, come lo ha di solito, e finalmente diventiamo anche noi simili a Europa, non dico uguali, perché il punto sta proprio lì. noi, ripeto, paghiamo più tasse, ma abbiamo, come ha sottolineato Walter più volte, dei servizi da terzo mondo. Questo è il problema, ma anche nell'indirizzare la gente al lavoro, ma anche nella scelta di che scuola fare in Italia, c'è questo grave scollamento tra le esigenze del mercato e quello che fa la gente. Molto spesso noi diamo la colpa all'impresa perché non riesce a assorbire questa mano d'opera, questa gente che chiede lavoro, ma guardate che prima c'è questo scollamento, questo mismatch tra quello che la gente fa e quello che richiede il mercato. Poi c'è uno spreco di risorse grandissimo della famiglia che ha fatto studiare uno magari architettura e poi va a fare il cameriere o lo spazzino, ma c'è anche una perdita da parte dello Stato, risorse ne abbiamo poche, vanno sprecate così. I modelli ce ne sono, come avete sentito, i modelli a cui guardare, non è che dobbiamo ricominciare tutto da zero. No. E allora come ci affacciamo per viaggiare sui mercati esteri o per proprio trasferirci? Cerchiamo di mutuare ciò che sarebbe di beneficio in Italia. C'è qualcuno che la pensa esattamente come lei sullo scollamento scuola-impresa? Davide, buongiorno. Pronto, Davide? Buongiorno, buongiorno. Niente, io insomma volevo portare la mia esperienza. Io ho 21 anni, mi sono diplomato 2 anni fa, nel 2011. In che cosa? SEO tecnico industriale e indirizzo meccanico. Ha trovato impiego? Sì, completamente da solo. Ho fatto prima un bando all'INSN di Frascati per neodiplomati come disegnatore tecnico, insomma nell'officina, e sono stato preso, erano 10 posti, era contratto di un anno poi rinnovabile, però la mia passione per le moto mi ha portato poi a andare in un'officina meccanica come responsabile tecnico sempre qui a Roma. Niente, appunto, io volevo far rendere conto alle persone della situazione. Noi eravamo 10 studenti in un istituto tecnico incredibile come Galileo Galilei di Roma, grandissimo, quindi faceva specie vedere solo 10 persone in un'aula che ne poteva contenere 30, e ci siamo diplomati in 5. Questo per dire, quando alle medie viene fatta la scelta fra istituto tecnico e scientifico. Cioè voi avete fatto i 5 anni di istituto tecnico in 10? Sì, no, allora i primi 2 anni sono comuni, poi c'è la specializzazione che è un meccanico elettronico. Quindi c'è una penuria di richieste, tu dici, per un istituto che poi garantisce in qualche modo l'ingresso nel mondo del lavoro quasi immediato. Attenzione, sempre questo mandare i figli al liceo, questo è il tuo messaggio. Sì. Grazie. Comunque veramente degli istituti buoni ci sono e danno buone competenze. E quindi è quello un pregiudizio anche molto diffuso, soprattutto nelle città italiane, sulla scarsa preparazione offerta dagli istituti tecnici. Grazie a Davide per questa segnalazione. Giuliano Cazzola, un altro mito da sfatare è quello che l'unico percorso di istruzione possibile, ci segnalano anche altri ascoltatori, sia quello in materie umanistiche classiche e da liceo. Ritorniamo agli istituti tecnici, è d'accordo? Beh sì, sono d'accordo, peraltro nella sua trasmissione viene fuori un quadro non a tinte fosche, viene fuori un quadro complesso, un quadro difficile in una situazione di crisi, con tanti problemi che il paese ha nell'aiutare i giovani, però insomma viene fuori una situazione nella quale ci sono anche delle speranze, ci sono anche delle cose positive che gli stessi giovani dichiarano. Certo, oggi noi abbiamo una situazione nella quale quelli che fanno il liceo sono più in numero maggiore di quelli che lo facevano ai miei tempi. Lì abbiamo avuto questo caso di lavoratori, di giovani che avevano un diploma, diciamo, di scuola professionale, che hanno trovato lavoro subito. Io ho delle esperienze, per esempio, di importanti aziende della mia provincia, posso fare anche il nome, la SACBI, che è una cooperativa storica. Ma qual è la sua provincia, scusi? La Bologna. Ah, Bologna. Che è una cooperativa storica, no? Una delle prime, che è quasi monopolista nel produrre macchine per lavorazione della ceramica, che ha delle grandissime difficoltà a trovare dei periti industriali, tanto che era andata una volta a prenderli anche in Sardegna, da una scuola della Sardegna. Ci sono purtroppo queste contraddizioni che non vanno sicuramente imputate ai giovani, però ecco, io non sarei tutto orientato, diciamo, ad assolvere la famiglia come fa come fa il mio amico Passarini, insomma, ci sono... Alla famiglia le sue colpe, secondo lei? Beh, secondo me la famiglia le sue quali, colpe. Quali? Beh, per esempio, in Italia un grandissimo numero di giovani si laureano e sono i primi laureati di quella dinastia. No? Di quella per famiglia, cui, sì. Di quella famiglia, ma diciamo per generazioni. Per cui c'è magari anche un atteggiamento protettivo a mantenere, a far sì che i giovani aspettino a entrare nel mercato del lavoro, che ci sia l'occasione per cui hanno studiato o per cui sono preparati o che rappresenta la loro aspirazione. Quando invece lei dice bisogna spingerli, bisogna spingerli a entrare più presto, ad alzarsi possibile. Le maniche. Grazie anche a Cazzola. Come avete sentito, da una parte c'è l'aspetto psicologico, c'è un'Italia che senza dubbio non ha un aspetto omogeneo, c'è l'inclinazione personale, c'è la tendenza ad accettare tutto oppure la tendenza a richiedere solo quello per cui si ha studiato, ma i dati comunque sono questi. La disoccupazione giovanile è salita al 39,1% in Italia e non può certo essere colpa solo delle aspirazioni o delle inclinazioni dei singoli, e tantomeno può essere colpa, come ha sottolineato qualcuno, degli stranieri, e questo qualcuno è Nicola Cacace. Dunque, ha sentito un'Italia a diverse velocità, un pochino a macchia di leopardo, ma cos'è che funzionerebbe davvero per ribaltare questa situazione come incentivo per i giovani, professor Cacace? È facile, molte cose dovrebbero funzionare meglio. Intanto l'Italia, cioè l'Italia è entrata nell'euro senza capire che cosa bisognava fare per restare tra i paesi industriali. Per restare tra i paesi industriali, cioè in un mondo ormai globale in cui c'è la concorrenza diretta, e ce lo dica lei, che costa un decimo, col rumeno che costa un quinto, bisognava fare prodotti e servizi ad alta innovazione. Questo fatto che hanno capito molti paesi industriali, l'hanno capito, ha capito Olanda, la Germania, parte il Giappone, tutti i paesi nordici. E noi non l'abbiamo ancora colto. Noi non l'abbiamo capito, abbiamo continuato a fare i vecchi prodotti, i vecchi servizi, sperando nella buona grazia, cioè, nella sorte che cambiasse. Grazie professore. Si sta esaurendo il tempo a nostra disposizione, ritornerà Spunti di Vista lunedì mattina, grazie a Carmelo Lauricella, in regia Benedetta Acri, con lui Marco Lombardo, che hanno confezionato questo programma. Da Irene Zerbini, buon fine settimana.